sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Migliaia in piazza Salonicco e tra un'ora i funerali del quindicenne, ancora altissima la tensione in Grecia. Il mangime e la diossina è andato anche ad otto mandri e di bovini, in Italia 35 sequestri. Pace fatta, le procure di Salerno e Catanzaro raggiungono un accordo, Fini chiede una riforma della giustizia condivisa. Ha denunciato il racket, ha fatto mettere in galera decine di mafiosi, ora dice lo Stato mi ha abbandonato, in XL l'intervista ad un testimone di giustizia. Un miliardo di senza cibo, 100 milioni in più negli ultimi due anni, denuncia la FAO. Accordo sulle rinnovabili, ma non sulle emissioni, ancora frizioni fra Italia ed Europa. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco e benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large che apriamo andando in Grecia. Andiamo in Grecia perché ci sono nuove violenze dopo l'uccisione di un quindicenne da parte della polizia, lo ricordiamo, questo omicidio è stata solo la molla naturalmente per far scatenare tutte queste rivolte, in realtà c'è molto altro. Vittorio Darold, inviato ad Atene, buongiorno, la cronaca innanzitutto. Beh, qui sta salendo la tensione in vista del funerale del ragazzo ucciso sabato dalla polizia e che si svolgeranno appunto alle 14 al cimitero di Paleofaliro, un cimitero che si adagia nella periferia della città verso il Pireo. L'altro appuntamento importante è lo sciopero generale previsto per domani, che diventerà un test importante per il governo Karmallis, che ha un solo voto di maggioranza e quindi ha una situazione molto difficile. La Grecia è quindi un anello debole dell'economia di Eurozona che sta subendo fortemente la crisi economica con i risvolti sociali che hanno visto ieri sera una città praticamente sotto assedio con 130 negozi distrutti e numerosi arresti da parte della polizia. Ecco Vittorio, ricordiamo che però lo sciopero era stato già proclamato prima, insomma si stanno in qualche modo unendo due proteste diverse. Sì, esattamente, c'è una protesta scatenata dall'evento drammatico di questa uccisione del giovane minorenne che ha dato fuoco appunto alle polveri, ma si sta in qualche modo agganciando a un malessere sociale molto più esteso, molto più forte, che sta creando una giunzione tra una situazione appunto di radicali estremi con un malessere della gioventù che non ha, è una delle più alte disoccupazioni in Europa. Grazie Vittorio, torneremo da te con la cronaca intorno alla chiusura di XL quando inizieranno i funerali del ragazzo che è stato ucciso, per sentire com'è la situazione e quali sono le tensioni. E Vittorio ci raccontava anche della fusione, diciamo, fra due generi di protesta diversi, di un malessere economico che c'è in Grecia, che sta maturando in Grecia negli ultimi tempi. A questo proposito Cristina Balottelli ha intervistato Rudy Caparrini, che ha scritto il libro La Grecia contemporanea. L'uccisione del giovane quindicenne ad Atene è senz'altro solo un pretesto che sta venendo strumentalizzato per portare in superficie una tensione latente che c'era nella società greca già da un po' di tempo, una tensione dovuta a motivi economici e sociali, la crescita nel paese dopo anni che ha segnato indici di 4-5% adesso sta rallentando ed è alla misura del 2%, cresce la disoccupazione, diminuiscono le opportunità, soprattutto si è sempre più ampliata la forbice tra i ricchi e invece tutti quelli che davvero faticano a tirare avanti, perché negli ultimi anni in Grecia tutto è aumentato rispetto ad alcuni anni fa, adesso il costo della vita per i generi alimentari in modo particolare si è fatto molto pesante. Da qui l'esplosione di questa violenza di cui ribadisco l'uccisione di un giovane quindicenne è stata solo il pretesto per portarla in superficie. Ma in queste violenze, in questi atti vandalici, ha un ruolo anche il movimento anarchico? Senza dubbio ha un ruolo fortissimo. In Grecia c'è un movimento anarchico molto molto forte. Gli anarchici greci sono indubbiamente organizzati, indubbiamente capaci di agire e stanno cavalcando questa onda di protesta mascherandosi da giovani dimostranti, ma in verità sono, come dire, delle truppe scelte. Molti dei black bloc, oramai è provato, provengono proprio dal fronte degli anarchici greci. Cambiamo argomento, veniamo alla questione della carne di maiale che proviene dall'Irlanda e contaminata da diossina. Stamattina la conferma, il mangime contaminato è stato dato anche ad 8 mandrie bovine nell'Irlanda del Nord. Secondo le autorità locali non si può escludere che carne da quelle mandrie sia entrata nella catena alimentare. Intanto in Italia il Ministero del Welfare ha fatto una precisazione: non sono state sequestrate tutte le 22 partite di carne suina irlandese arrivate in Italia dal 1 settembre, 22 è il numero di segnalazioni da parte della Commissione europea. E pochi istanti fa la sottosegretaria alla salute Francesca Martini ha dato i numeri precisi, sono 89 le partite di carne di maiale di origine irlandese entrate nel nostro paese e ci sono stati 35 sequestri. Dunque, i sequestri che sono stati effettuati dai NAS dei Carabinieri e dalle ASL in varie regioni d'Italia, le carni ritirate in particolar modo erano destinate alla lavorazione, cioè sarebbero dovute diventare prosciutti e altri insaccati. In Campania i sequestri sono stati disposti dall'Istituto Zooprofilattico di Portici. Marco Lignana ha intervistato Antonio Limone, commissario dell'Istituto. Abbiamo individuato le prime 4 partite che erano destinate ad alcuni salumefici del Baianese, ma noi in Campania non abbiamo fatto questa cosa con impegno, ma non abbiamo una grande difficoltà. In realtà ci sono solo 7 salumefici che lavorano tra Campania e Basilicata, carni che provengono dall'Irlanda. Abbiamo una percentuale di carni forane che provengono dall'Irlanda suine dello 0,7% rispetto alla lavorazione complessiva e quindi questo un po' ci rassicura. La carne doveva essere trasformata per farla diventare prosciutti o insaccati e questa carne che non è stata mai lavorata è stata piombata e messa sotto sequestro. È probabile che dopo si avvierà a distruzione. Lei ha sentito i proprietari di questi salumifici? È evidente che loro hanno danni, ma da questo meccanismo non si scappa. Nel meccanismo del villaggio globale dobbiamo essere, come dire, rassegnati al rischio. La verità è che però dal rischio si riduce quando l'attività analitica e i controlli sono serrati. Anche di questo torneremo a parlare più avanti e parleremo più precisamente dell'etichettatura che non è prevista per la carne di maiale. Adesso l'Italia la chiede a gran voce. È necessaria una riforma che abbia un obiettivo condiviso, l'efficienza del sistema giudiziario. Queste sono parole pronunciate stamattina dal presidente della Camera Gianfranco Fini su un tema di grandissima, strettissima attualità in questi giorni. Sì, perché le forze politiche ne discutono in seguito alle vicende del Partito Democratico, ma anche in seguito alla guerra tra le procure di Salerno e Catanzaro. Sono riprese questa mattina le audizioni al CSM, guerra che però sembra essere terminata. Andrea Viali, è così? Sì, è così Simone, sono iniziate da pochi minuti e andranno avanti per tutto il giorno le audizioni qui a Palazzo dei Marescialli. Oggi la prima commissione ascolterà tutti i PM coinvolti in questo scontro fra le procure di Salerno e Catanzaro. I primi saranno quelli di Catanzaro che sono in audizione in questi minuti. Quelli che hanno ereditato il fascicolo Why Not, l'inchiesta che era, lo ricordiamo, è stata avviata dall'ex PM di Catanzaro De Magistris, trasferito poi anche lui dal CSM dopo i contrasti con i suoi superiori. Nel pomeriggio ad essere sentiti saranno invece i sostituti procuratori di Salerno che nei giorni scorsi hanno ordinato le perquisizioni e i sequestri negli uffici e nelle abitazioni dei magistrati di Catanzaro, provvedimenti che hanno innescato uno scontro che ha pochi precedenti e che ha già spinto il CSM nei giorni scorsi ad avviare le procedure per il trasferimento d'ufficio dei capi delle procure di Catanzaro e Salerno, Iannelli e Apicella. Un analogo provvedimento potrebbe essere preso oggi anche nei confronti dei PM che saranno ascoltati in giornata, anche se le due procure ieri hanno raggiunto un accordo annullando in pratica tutti gli atti e tutti i provvedimenti che erano stati emessi nel corso di questo scontro che dunque al momento sembrerebbe essersi concluso. Staremo a vedere, per il momento da qui è tutto. Grazie Andrea Viali. Nel frattempo è arrivata un'ultima ora dalla Grecia. Ci sono scontri in corso ad Atene davanti al Parlamento. Centinaia di manifestanti hanno lanciato bottiglie Molotov e sassi contro la polizia. Dunque, a conferma che la situazione è sempre più tesa anche in vista, come ci raccontava Vittorio Darold, dei funerali del giovane, del ragazzo ucciso dalla polizia che si terranno fra meno di un'ora. Un altro aggiornamento, ma di tutt'altro genere, arriva dal mondo del calcio. Era una notizia in qualche modo attesa, ora la conferma: il Real Madrid ha esonerato l'allenatore, il tedesco Bernd Schuster. La panchina verrà affidata con ogni probabilità al tecnico spagnolo Juan de Ramos, ex allenatore del Tottenham, che dovrebbe firmare, secondo quanto anticipano i media spagnoli, un contratto fino al giugno del 2010. Inizia domani a Palermo una manifestazione dedicata a un genere cinematografico sempre più popolare, ma che soffre ancora molte difficoltà. Parliamo del documentario. Tavole rotonde, incontri, dibattiti, ma soprattutto proiezioni. A Palermo 5 giorni dedicati al documentario, un genere di cui si parla sempre di più. Ma qual è la vera condizione del documentario italiano? Federico Schiavi, montatore e presidente dell'associazione Doc It, l'associazione dei documentaristi italiani. La fase che viviamo, soprattutto in termini televisivi, è abbastanza negativo per il documentario, per cui l'accesso del grande pubblico al documentario è piuttosto difficoltoso, avviene in modo irregolare, generalmente su poche piattaforme televisive, a parte i canali tematici che si occupano principalmente di documentari. La questione ovviamente non è solo televisiva, è una questione anche di distribuzione in sala. Siamo uno dei paesi occidentali che ha maggiori difficoltà a portare in sala documentari di qualità. Un peccato, perché i documentari italiani riscuotono successi in tutti i festival internazionali e sempre più giovani vorrebbero fare i documentaristi nel futuro. Eppure qualche prospettiva nuova c'è. Le piattaforme di trasmissione dei contenuti si stanno allargando e si stanno allargando in un modo articolato, perché la diffusione anche sul web dei contenuti audiovisivi pone questioni, ma dà anche opportunità nuove. È molto più tematico il web, per cui probabilmente anche gran parte delle library di lavori straordinari che non sono stati visti saranno accessibili in futuro. Gli stati generali del documentario iniziano domani nei cantieri culturali della ZISA, che diventeranno dal gennaio 2009 la sede siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia, proprio del corso di documentario storico-artistico e docu-fiction. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Scontri davanti al Parlamento in Grecia, i manifestanti avrebbero lanciato diverse molotov contro la polizia. Fra meno di un'ora inizieranno i funerali del quindicenne ucciso sabato. Il premier Kamalis annuncia la linea dura contro chi commette violenze. È stato confermato che il mangime contaminato da diossina è stato dato non solo ai maiali, ma anche a 8 mandrie di bovine. 35 sequestri di carne suina in Italia, per la quale il governo italiano vuole l'etichettatura obbligatoria. Rolando Manfredini, responsabile sicurezza alimentare della Coldiretti. Allora, lei come fa, se il consumatore non sa da dove viene quel tipo di prodotto, magari proprio andare dentro alla casa a ritirare quella merce che in un qualche modo potrebbe essere contaminata? E accordo tra le procure di Salerno e Catanzaro. Le due procure, dopo lo scontro sulla vicenda dei magistri, hanno firmato un'intesa. Intanto il presidente della Camera Gianfranco Fini auspica una riforma della giustizia condivisa. Altri 40 milioni di persone si sono aggiunte quest'anno alla lunga lista di coloro che soffrono la fame, secondo le stime preliminari pubblicate oggi dalla FAO. Le persone sottonutrite al mondo sono così 963 milioni. È stata raggiunta l'intesa sulle energie rinnovabili fra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo. Al termine dell'ennesima nottata di negoziato, non c'è ancora visione comune sulla parte che riguarda le emissioni di gas serra. La missione civile Eulex in Kosovo sarà operativa da oggi, a quasi 9 mesi dalla sua approvazione. Sui tempi così lunghi sentiamo Alberto Perduca, responsabile della componente giustizia della stessa missione. Il tempo è stato piuttosto lungo e impegnativo, perché è stato necessario coinvolgere nelle discussioni per la modalità del trasferimento delle competenze tutti gli attori interessati della regione, in particolare le autorità di Belgrado e le autorità di Pristina. Su questa missione tutti i dettagli alle 13.45. Noi lo chiameremo Francesco, nome chiaramente di fantasia, per tutelare la sua sicurezza. È il primo testimone di giustizia pugliese. Testimone, non pentito. Non ha mai commesso un reato. Era un commerciante, ha denunciato i suoi estorsori, è stato costretto a cambiare identità e città. Ma la Sacra Corona Unita lo perseguita ancora oggi e lui non è più protetto. Ecco la sua storia. Mio padre ha sempre gestito un'attività per conto suo, un'attività di alimentari. Negli anni 60 fino al 92, che poi ci ha passato questa attività tra padre e figlio. Nel 90 così abbiamo deciso, io e mio fratello, che avevo un fratello più piccolo, di allargarci un po' con l'azienda. Nel 92, insomma, abbiamo aperto questo grande deposito, perché noi ne avevamo già uno e poi ne abbiamo aperto un altro più grande, io e mio fratello. E là qualcuno, la criminalità organizzata, ha fiutato l'affare. Eh sì, insomma, ci siamo presi un capannone grandissimo, insomma, ci siamo organizzati con operai, macchinari, eccetera, e abbiamo fatto la nostra distribuzione. E negli anni 92 io di persona ho avuto delle persone pregiudicate, erano logicamente, che mi avevano già chiesto il pizzo, diciamo, per poter stare tranquillo in città, per poter lavorare più tranquillo. Quindi insomma, le hanno fatto un'estorsione, lei questo pizzo l'ha pagato? No, io non ho mai pagato, mai in vita mia. E mai. Li ha denunciati? E io li ho subito denunciati. Però poi all'epoca, insomma, poi mi hanno fatto lavorare così tranquillamente, insomma, non ho avuto più problemi, per fino 92-93, insomma. E poi cosa è successo? E poi loro mi hanno fatto prima lavorare tranquilli, poi mi hanno consumato man mano dal 92 fino all'anno 2000. Praticamente loro hanno iniziato prima a farmi i furti di autovetture nostre private, poi i furti dentro il mio appartamento, fino a minacce, minacce personali, insomma, volevano soldi. E poi ci hanno messo una decina di volte le bombe sotto i capannoni, che ci hanno fatto saltare tutti i capannoni in aria. Lei ha denunciato questi episodi, queste bombe, queste estorsioni, e ha chiesto aiuto alla magistratura a quel punto? Sì, la magistratura, loro mi hanno sempre, anzi, la di Roger, sono stati sempre con me, sempre. Io ho denunciato queste persone, loro dicevano: se vuoi andare sotto protezione, se vuoi la scorta, perché io ho avuto a che fare con gente che ha fatto omicidi, estorsioni, droga, gente clam pesanti, diciamo, gente non delinquenti di strada, ma veri e proprio pregiudicati. A un certo punto, signor Francesco, lei decide di entrare nel programma di protezione. Quando si arriva alla minaccia fisica, alla minaccia di morte, a quel punto cosa accade? Praticamente poi, dopo tre volte che già la magistratura mi aveva fatto presente di questo programma di protezione, in quanto ero a rischio vita, io nell'anno 2000, praticamente l'ultima denuncia che ho fatto tra le centinaia di denunce da me fatte alla procura di Trani e alla procura di Bari, il magistrato, il sostituto procuratore, che adesso è il sindaco di Bari, questo lo posso dire, prima mi hanno detto che è meglio per te di andare sotto protezione, in quanto abbiamo avuto, loro avevano fatto praticamente intercettazioni in macchine o ai telefoni, loro praticamente si stavano organizzando per farmi fuori, praticamente la malavita locale, la Sacra Corona Unita. Quindi c'era un progetto per ucciderla? Sì, esatto. Questo perché lei rappresentava un problema, perché si era ribellato, sì, al racket. Esatto. A parte questo, poi io sono stato anche sparato contro, mi hanno mandato i proiettili a casa. In questo clima di minacce, lei viene messo sotto protezione e portato in una città del nord Italia. Che cosa succede qui? Qui praticamente lo Stato mi fa fare un percorso di vita, non so come chiamarlo. Praticamente mi trovano una casa, mi danno uno stipendio. Mi scusi, con tutta la sua famiglia? Sì, io, mia moglie e le mie due figlie. E per me questa era una cosa, il fatto di sottoprotezione, che non capivo, cioè non sapevo neanche che cosa. Loro mi avevano spiegato soltanto che ero tutelato dallo Stato, praticamente mi spostavano da una parte per farmi stare sicuro, no? Quindi nome finto, naturalmente, le danno un lavoro e lei vive in un'altra città. No, lavoro no, niente, zero. Io non potevo fare niente, non potevo esercitare niente. Loro mi hanno trasferito in questa città del nord e lì sono stato 4 anni e mezzo, diciamo, con lo stipendio in casa e non facevo niente, praticamente. E però succede qualcosa a quel punto? Praticamente avevo la possibilità per legge, diciamo, di uscire fuori dalla protezione. E ho fatto domanda a Roma per uscire fuori protezione. Lo Stato mi dà un contributo, mi ha dato un tot di soldi per uscire fuori da questa protezione, no? E perché ha deciso di uscire fuori dalla protezione? Perché questi 4 anni e mezzo io ho avuto un trauma, non tanto io va bene, ormai ero già abituato. I miei figli stavano male, hanno chiesto anche i psicologi da Roma, perché lasciare una città, famiglia, fare una vita diversa da loro, diciamo, l'hanno presa male questa situazione, mia moglie pure, insomma. Necessaria per la vostra protezione. Nel 2005 dunque lei decide di uscire dal programma di protezione. E che cosa fa? Quando esco fuori protezione, con la capitalizzazione, così la chiamano loro, con questi soldi che mi ha dato lo Stato, mi ha dato 247.000 euro praticamente. È un bonus che dicono loro per rifarmi una vita. Loro mi fecero fare un progetto, un'attività, apriti un'attività, ci fai sapere quanti soldi, diciamo, hai bisogno per fare questa attività. Loro si sono fatti due conti, insomma, e mi hanno dato questi soldi. Io sono uscito fuori protezione, però loro mi hanno fatto scegliere, diciamo, la regione, e ho scelto il centro Italia. Ho preso prima un albergo e poi ho trovato casa. Mi sono affittato una casa, ho pagato un anno d'affitto prima perché non avevo la dichiarazione di redditi, perché purtroppo noi siamo usciti con i documenti nuovi, però senza dichiarazione di redditi, senza niente, come se eravamo nati quel giorno praticamente. E a quel punto la ritrovano? A quel punto sono stato sfortunato perché dopo ho preso casa, spostato tutte le robe da dove stavo, dopo 15-20 giorni stavo io, mia moglie e i miei due figli in questo grande supermercato, e ritrovo due persone con le mogli e figli là che io avevo denunciato, che erano persone, insomma, pregiudicati di grosso calibro del mio paese. E qui si ferma la prima parte della storia di Francesco, l'avete sentito, commerciante pugliese che ha denunciato il racket e si è trasferito in un'altra città del centro, ma anche qui è stato scoperto dagli estorsori che continuano a perseguitarlo. Domani sentiremo la seconda parte del suo racconto. Su questa vicenda intanto il commento di Daniele Biacchessi. Un testimone di giustizia è persona più importante di un pentito. Un collaboratore di giustizia è un criminale che decide di rivelare nomi, cognomi, fatti interni ad un'associazione di stampo mafioso. Un testimone è invece un cittadino che conduce una vita normale, fino al giorno in cui viene coinvolto, suo malgrado, in qualcosa che secondo i criminali non deve vedere, non deve raccontare agli inquirenti. Invece prende coraggio e denuncia i suoi estorsori, gli autori di un omicidio, di un ferimento, di una rapina. Cioè fa il suo dovere di cittadino. Un cittadino onesto che afferma i valori della legalità. E lo Stato che fa? Spesso gli toglie la protezione e non lo aiuta. È accaduto a nome in codice Francesco, ma è successo anche in passato. Proteggerli e non lasciarli soli dovrebbero essere priorità dello Stato, perché la nuova frontiera della lotta alla mafia passa anche attraverso il contributo di tanti cittadini italiani che collaborano con la giustizia e non si nascondono dietro al silenzio, all'omertà. Un sacrificio che dunque deve essere premiato. Ora vi facciamo sentire un audio che arriva dagli Stati Uniti. That a union member can be upset with members of well as well. They are constitutional bitches. La musica di sottofondo, come sentite, è una musica da chiesa, perché è una preghiera, ma è una preghiera molto particolare. In tempi di crisi economica, insomma, si parla molto della crisi del settore auto. I leader democratici del Congresso hanno detto ieri a Washington di essere pronti a sbloccare fino ad un massimo di 15 miliardi di dollari. Ebbene, l'audio che sentite è una preghiera per le Big Three, cioè le grandi tre case automobilistiche di Detroit. Chi l'ha fatta, Alessandra? Il reverendo Charles Ellis, che ha organizzato proprio una predica incentrata sul piano di salvataggio e ha addirittura portato davanti alla platea dei suoi fedeli delle auto, dei SUV, per dimostrare, insomma, in maniera proprio pratica l'obiettivo di questa preghiera. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Scontri davanti al Parlamento ad Atene, dove i contestatori hanno lanciato una molotov contro la polizia. In questo clima di violenza e tensione stanno per iniziare i funerali del ragazzo di 15 anni ucciso dalla polizia durante una manifestazione. È stata la sua morte a dare il via alle violenze contro le quali il premier Kostas Karamanlis sceglie la linea dura. Non sarà tollerata alcuna benevolenza. È stato confermato che il mangime contaminato da diossina è stato dato non solo ai maiali, ma anche a 8 mandri e di bovini. Controlli e sequestri sono scattati anche nel nostro paese, 35 in tutto. Sentiamo Antonio Limone, commissario dell'Istituto Zooprofilattico di Portici, provincia di Napoli. La carne doveva essere trasformata per farla diventare prosciutti o insaccati, e questa carne, che non è stata mai lavorata, è stata piombata e messa sotto sequestro. Gli obiettivi del pacchetto clima del dell'Unione Europea, il cosiddetto 20-20-20, non sono negoziabili. Lo ha indicato il presidente della Commissione Europea, Barroso, che però ha chiarito è necessaria flessibilità a fronte di preoccupazioni giustificate. È stato raggiunto un accordo fra le procure di Salerno e Catanzaro. Dopo la scontro sulla vicenda De Magistris hanno firmato un'intesa. Napolitano dice è un passo significativo. Il presidente della Camera Fini auspica una riforma della giustizia condivisa. In 2007 alone, la voce che sentite è quella del direttore generale della FAO, Jacques Diouf. Altri 75 milioni di persone nel solo 2007 si sono aggiunti alla lista di coloro che soffrono la fame, altri 40 milioni in questa prima parte del 2008, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi alimentari, secondo le stime preliminari pubblicate oggi dalla FAO. Le persone sottonutrite al mondo sono così 963 milioni. In apertura vi abbiamo dato la cronaca sulla vicenda del maiale alla diossina. Avete sentito, 35 sequestri in tutta Italia e le autorità dell'Irlanda che confermano il fatto che il mangime contaminato da diossina non è andato solo ai maiali, ma ahimè anche ai bovini. Adesso vogliamo toccare un altro aspetto, quello dell'etichettatura, obbligatoria proprio per la carne bovina dopo le vicende della mucca pazza, obbligatoria per il pollo dopo l'aviaria e lo scandalo della diossina, ma non per tutte le altre carni. La Coldiretti in particolare chiede che ci sia un'etichettatura per tutti i prodotti alimentari. Nel frattempo il governo italiano sta avanzando la proposta appunto che questa etichettatura venga estesa. E allora Marco Lignana ha intervistato Rolando Manfredini, responsabile della sicurezza alimentare dell'Associazione appunto dei coltivatori. Il sistema di rintracciabilità che passa attraverso l'applicazione del regolamento 178 prevede di andare a togliere il pericolo dove esso si verifichi, questo dice il regolamento 178, ma il regolamento 178 è carente dal punto di vista dell'etichettatura, cioè noi non sappiamo, i consumatori non sanno effettivamente da dove viene quel determinato tipo di prodotto. Allora lei come fa, se il consumatore non sa da dove viene quel tipo di prodotto, magari proprio andare dentro alla casa a ritirare quella merce che in un qualche modo potrebbe essere contaminata? Ecco quindi che l'etichettatura serve in questo caso non tanto a distinguere la merce, ma a mettere in piedi un sistema che consenta la rintracciabilità completa. Il maiale non ha, la carne di maiale non ha la rintracciabilità completa fino all'etichettatura, come molti altri alimenti. Sarebbe opportuno mettere un'etichettatura su tutti i cibi. Il 48% degli alimenti in Italia non viene etichettato, etichettatura d'origine, questo è il sistema. Allora, quando adesso il pericolo si è verificato nella carne di maiale, si sono accorti, guarda caso, si sono accorti che l'etichettatura del maiale non c'è, ma c'è, non c'è per il 40% degli alimenti che arrivano sulla nostra tavola e questo è uno scandalo. Notizia di un attimo fa, tra l'altro ci sono stati altri 7 sequestri di carne di maiale in Italia, 6 in Veneto, 1 in Basilicata, aumentano così a 42 le partite di carne di suino proveniente dall'Irlanda individuate nel nostro paese. Giulia Crivelli, la vicenda del maiale alla diossina ovviamente non è solo italiana ma riguarda tutti i paesi europei, come ne parlano i quotidiani oggi in edicola? Partendo dall'Irish Times, che è uno dei principali quotidiani irlandesi, che forse un po' curiosamente, sì, nel senso che dovrebbero capire che l'allarme, insomma, quando si tratta di alimenti scatta subito un allarme particolare, però loro lamentano il fatto che i giornali stranieri, la World Press, quindi la stampa mondiale, ha dato un po' troppo spazio a questa, quella che viene però definita pork crisis, quindi la crisi della carne di maiale. Soprattutto, secondo loro, i più colpevoli sono gli inglesi, in effetti i titoli dei giornali britannici sono i più allarmistici, dal Times al Guardian a giornali molto più popolari dei tabloid come il Daily Express e il Daily Mail, che addirittura titola non comprate la carne di maiale tossica irlandese. Per il resto invece i giornali tedeschi danno la notizia in modo un pochino più diciamo meno eclatante, cioè però la Süddeutsche Zeitung ce l'ha in prima pagina e parla di 2000 tonnellate di carne alla diossina, così viene definita, sequestrata. Quindi ne parla tutta Europa. Giulia, per passare a qualcosa di un pochino più leggero? Sì, c'è un interessante focus sul Wall Street Journal sui programmi di frequent flyer, cioè quelli che permettono di accumulare le miglia quando si vola. Come molto. Le mille miglia? Esatto. Che non sapremo se potremo riutilizzare con CAI, ma insomma. E quello che adesso le linee aeree si chiedono, spiega il Wall Street Journal, è se forse questi programmi non hanno fatto un po' il loro tempo, nel senso che siccome sono calcolati solo sulle miglia calcolate, non su quanto costa il biglietto, per le linee aeree non sono più così convenienti. Allora si sta pensando di di rimodularli, cioè più caro è il biglietto, quindi per esempio un biglietto di business class o semplicemente un biglietto a prezzo pieno, non di quelli che si riesce a strappare a una tariffa conveniente, più sono le miglia accumulate. E naturalmente bisognerà un po' rivedere anche il sistema di premi, perché pare che non siano più così, non servono più così come una volta ad aumentare la fedeltà dei consumatori. Grazie Giulia anche per oggi per questa panoramica. Noi passiamo a parlare di clima, insomma ve lo dicevamo anche nei titoli, è stata raggiunta una parte dell'accordo europeo sul cosiddetto 20-20-20. Sì, in realtà è stata raggiunta solo un'intesa su uno di questi 20, ossia la parte che riguarda le energie rinnovabili, mentre invece resta ancora aperta la questione spinosa del contenimento delle emissioni inquinanti. Ha avuto esito positivo questa mattina a Bruxelles il negoziato a tre tra Europarlamento, presidenza di turno francese del Consiglio europeo e Commissione europea sulla direttiva per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Si scioglie così un nodo del pacchetto post-Kyoto su clima ed energia che sarà al centro delle discussioni al vertice dei capi di Stato e di Governo di giovedì e venerdì prossimi a Bruxelles. Secondo fonti del Parlamento europeo, l'intesa tiene conto della richiesta italiana di avere per le energie rinnovabili una clausola di revisione nel 2014, ovvero di poter verificare e aggiustare la situazione dei singoli paesi sulla strada dell'obiettivo di arrivare a una produzione del 20% di energie rinnovabili entro il 2020. Altre questioni spinose del pacchetto clima restano però da risolvere in settimana, in particolare la distribuzione degli oneri tra i vari settori industriali per arrivare a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020. Il negoziato tra i leader europei resta perciò difficile, in quanto in particolare Italia, Germania, Polonia e paesi dell'Est hanno delle rivendicazioni ancora non soddisfatte dall'attuale bozza di compromesso sul tavolo. Enrico Brivio, GR24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E a conferma delle difficoltà di questi negoziati ci sono le parole di poco fa del Presidente della Commissione europea, José Manuel Durão Barroso. Dice: gli obiettivi del pacchetto clima non sono negoziabili, anche se qualche timida apertura all'Italia arriva. È comunque necessario garantire un'equa distribuzione dei costi del pacchetto con una flessibilità a fronte di preoccupazioni giustificate. E continuiamo a parlare di questioni energetiche. Entro il 2011 Torino disporrà di un suo impianto di trattamento di rifiuti e produzione di energia che servirà tutta la provincia. La prima pietra è stata già posta nella località di Gerbido, vicinissima al capoluogo. E la storia è interessante perché la popolazione, superata un'iniziale perplessità che c'è sempre in questi casi, sembra aver accettato di buon grado la costruzione dell'impianto. I dati raccolti dall'Università di Torino prima nel 2007 e poi nel 2008 non lasciano dubbi. L'anno scorso il 26% degli abitanti delle aree vicine al futuro termovalorizzatore giudicavano l'opera utile. Oggi quella quota è passata al 41%, il che, unito all'altro 41% che ritiene l'opera necessaria, significa che l'82% dei residenti della zona non si oppongono all'impianto. Di pari passo aumentano coloro che ritengono l'opera ecologica, inodore, sicura, silenziosa, anche se restano le preoccupazioni sul traffico e la svalutazione degli immobili dell'area dell'impianto. Qual è il segreto di questo successo? Giuseppe Vallone, presidente di TRM, la società interamente a capitale pubblico, nata per la realizzazione dell'impianto. Non abbiamo mai immaginato un modello di informazione finalizzata, come dire, a commercializzare l'impianto, ma un confronto sulla problematica ambientale. Quali erano i vantaggi, quali erano gli svantaggi, cosa potevano essere le garanzie. Quindi dialogo, informazione, anche attenzione all'estetica, insomma questi sono stati tre pilastri, diciamo, certo, sui quali vi siete mossi. Un ultimo, una ricaduta di investimenti su quel territorio pari a 41 milioni di euro, di cui la stragrande maggioranza sono in capo alla nostra società per riqualificare il territorio in termini di piste ciclopedonali, parchi, aree attrezzate. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. Un minuto dedicato all'arte. Da pochi giorni, nell'ambito delle celebrazioni dedicate al pittore toscano Giovanni Fattori, il Museo Nazionale Alinari di Firenze, Museo della Fotografia, ospita una mostra dedicata ai macchiaioli. 100 anni dalla morte di Giovanni Fattori, l'ultimo degli eventi espositivi del 2008 che Firenze gli dedica per celebrare la ricorrenza è al Museo Nazionale Alinari della Fotografia. Una mostra dedicata ai macchiaioli e la fotografia. Oltre 200 opere tra scatti, di cui molti inediti, dipinti e raffronti iconografici, per cercare di raccontare le intime connessioni tra pittura e fotografia, dove se la prima resta ancorata al vecchio pennello, la seconda utilizza la macchina come nuovo modo di rappresentare la realtà. Monica Maffioli è una delle curatrici della mostra insieme a Silvio Balloni e Nadia Marchio. Sono solo due mezzi diversi e nello specifico la luce catturata dall'obiettivo fotografico consentiva ed ha aiutato i macchiaioli a vedere la realtà in forma monocroma, e questo è stato l'apporto fondamentale della fotografia nella formazione della pittura macchiaiola. E gli stessi macchiaioli, abbiamo scoperto, usavano tanto la fotografia da essere fotografi loro stessi. Un dialogo dunque tra due diverse forme espressive, qui affrontata in cinque diversi capitoli, che in Toscana animò il movimento dei macchiaioli nella seconda metà dell'Ottocento e alcuni anni più tardi influenzò quello degli impressionisti francesi. La mostra è a Firenze fino al 15 febbraio del 2009. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Scontri davanti al Parlamento ad Atene, dove i contestatori hanno lanciato una molotov contro la polizia. In questo clima di violenza e tensione stanno per iniziare i funerali del ragazzo di 15 anni ucciso dalla polizia durante una manifestazione. È stata la sua morte a dare il via alle violenze contro le quali il premier Kostas Karamanlis sceglie la linea dura. Non sarà tollerata alcuna benevolenza verso i responsabili. È stato raggiunto un accordo fra le procure di Salerno e Catanzaro dopo lo scontro sulla vicenda De Magistris. Napolitano dice un passo significativo. Il presidente della Camera Fini auspica una riforma della giustizia condivisa. Parla ai nostri microfoni il primo testimone di giustizia pugliese. Era un imprenditore che ha denunciato il racket. La Sacra Corona Unita lo perseguita ancora oggi e lui non è più protetto e non ha più soldi per vivere. La sua voce. Mi hanno fatto prima lavorare tranquilli, poi mi hanno consumato man mano dal 92 fino all'anno 2000. Praticamente loro hanno iniziato prima a farmi i furti di autovetture nostre private, poi furti dentro il mio appartamento, fino a minacce, cioè minacce personali, insomma volevano soldi. Poi ci hanno messo una decina di volte le bombe sotto i capannoni, che ci hanno fatto saltare tutti i capannoni in aria. È stata raggiunta un'intesa sulle energie rinnovabili fra Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo al termine dell'ennesima nottata di negoziato. Non c'è ancora però un accordo sulla parte che riguarda le emissioni di gas serra. Gli obiettivi del pacchetto clima, ha detto il Presidente della Commissione Barroso, non sono negoziabili, ma è necessaria comunque flessibilità. Confermato che il mangime contaminato da diossina è stato dato anche non solo ai maiali, ma ad 8 mandrie di bovini in Irlanda. Controlli e sequestri sono scattati anche nel nostro paese, 42 in tutto. Il ministro del welfare Maurizio Sacconi tranquillizza. No, la situazione, come avete visto, è assolutamente sotto controllo. È stato possibile identificare immediatamente i prodotti che possono in qualche modo essere sospetti, quindi assoluta tranquillità. Per fortuna noi abbiamo oltretutto una rete di veterinari come nessun altro paese europeo ha. Nel 2008 sono aumentate le persone che nel mondo soffrono la fame, 40 milioni in più. Colpa dei prezzi e forse la crisi potrebbe peggiorare la situazione. Questi sono dati diffusi questa mattina a Roma dalla FAO. Paola Nania. Sì, buongiorno. La causa, secondo la FAO, sta tutta nell'aumento esponenziale dei prezzi alimentari. Il risultato, come dicevate, è quello di un incremento impressionante delle persone che soffrono la fame. Nel 2005 erano 848 milioni, nel 2007 923, vale a dire 75 milioni in più. E ora, secondo le stime preliminari dell'Agenzia ONU per l'alimentazione e l'agricoltura, 963 milioni, dunque quasi un miliardo. In un anno 40 milioni di persone in più. Come ha spiegato il direttore generale della FAO, Diouf, sentiamo. In 2007 alone, 75 million people were pushed into chronic hunger. Appunto Diouf ha dato le cifre di questo peggioramento della situazione e ha detto le conseguenze della crisi globale del cibo sono drammatiche. Questa realtà non è accettabile nel XXI secolo. Le zone più colpite sono, come prevedibile, Asia e Africa, e la crisi a cui stiamo assistendo potrebbe aggravare la situazione. È tutto. Grazie Paola Anania. Veniamo alla visita del generale americano Petraeus in Italia. Vincenzo Miglietta, quali sono gli incontri previsti oggi e soprattutto di cosa si parlerà? sì una due giorni molto intensa nella capitale per il generale americano. Nel tardo pomeriggio Petraeus vedrà il presidente del Consiglio Berlusconi e il ministro della difesa La Russa. Domani sarà la volta del ministro degli esteri Frattini. Il generale, cui fanno capo le operazioni americane in Afghanistan oltre che in Iraq, dovrebbe, secondo alcune anticipazioni, spiegare come Washington intende rivedere la presenza di truppe nell'area geografica, con una progressiva diminuzione in Iraq ed un impegno maggiore in Afghanistan. In quest'ultimo paese intanto sembra che la situazione stia piano piano peggiorando per le truppe occidentali. La guerriglia talebana, che già controllava almeno il 50% del paese, ne controllerebbe, secondo un autorevole istituto di strategie internazionali, fino al 72%. Al di là di queste percentuali, il viaggio in Europa di David Petraeus è finalizzato a convincere i paesi europei ad aumentare la loro presenza militare in Afghanistan. Gli italiani, lo ricordiamo, sono già 2400. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Ora ci trasferiamo in Kosovo, dopo dove oggi è partita, potremmo dire finalmente, la missione civile Eulex. Diciamo finalmente perché era stata annunciata già nei mesi scorsi, ma per una serie di ritardi si è arrivati solo ad oggi. Composta da poliziotti, giudici e doganieri, 1900 uomini in tutto, rimpiazzerà progressivamente la missione dell'ONU nell'insieme del territorio kosovaro. Sergio Nava ha intervistato Alberto Perduca, responsabile della componente giustizia della missione. I funzionari di polizia, delle dogane, i magistrati e tutto l'altro, il resto del personale adibito ai vari settori, inizierà a operare nei vari uffici, nelle varie amministrazioni del Kosovo. Cosa è accaduto in questi mesi? A febbraio si diceva che nel giro di qualche settimana, di pochi mesi, due o tre mesi, Eulex sarebbe stata operativa e avrebbe sostituito la missione dell'ONU UNMIC. Questo non è avvenuto. Perché? Il tempo è stato piuttosto lungo e impegnativo, perché è stato necessario coinvolgere nelle discussioni per la modalità del trasferimento delle competenze tutti gli attori interessati della regione, in particolare le autorità di Belgrado e le autorità di Pristina. Che sia o meno uno stereotipo, il Kosovo è stato spesso descritto in passato come una specie di crocevia criminale in mano anche a delle bande criminali organizzate. Che idea si è fatto? Guardi, il Kosovo è parte di una regione notoriamente interessata ad attività criminali, per la sua posizione geostrategica, per il fatto di uscire da lunghi anni di conflitti. Sotto questo aspetto il Kosovo non fa eccezione. Non sono ancora in grado di dire se la situazione del Kosovo è più difficile, più grave, più seria rispetto ad altre zone limitrofe. Qual è il Kosovo della fine del 2008, dopo un anno quasi dalla dichiarazione di indipendenza? Sul territorio credo che da parte della società civile e delle istituzioni vi sia una grossa attesa nei confronti della missione dell'Unione Europea. Ci si aspetta dall'intervento dell'Europa un contributo per la crescita e il consolidamento del Kosovo come Stato di diritto, e credo che spetti a noi non deludere questa attesa. Ieri la confessione di alcuni detenuti di Guantanamo sull'11 settembre, oggi le interpretazioni. Secondo i giornali arabi sarebbe una mossa per conquistare il martirio. Una mossa per conquistare il martirio prima che il presidente eletto Barack Obama chiuda il carcere di Guantanamo. Secondo il quotidiano panarabo Al-Hayat, sarebbe questa la ragione che avrebbe spinto Khaled Sheikh Mohammed, la mente degli attentati dell'11 settembre, e i suoi compagni di prigionia a confessare le loro colpe. Per il giornale arabo, il fatto che i cinque terroristi abbiano fatto conoscere ai giudici la loro intenzione di confessare il 4 novembre scorso, ovvero lo stesso giorno del voto USA, farebbe pensare che la loro decisione sia dovuta al timore che una vittoria di Obama avesse potuto fargli perdere l'occasione di sfidare gli USA elevandosi al grado di martiri. Al-Hayat non esclude che l'ammissione di colpa miri in realtà a mischiare le carte per proteggere altre persone coinvolte e ancora a piedi libero. Adif Atahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Scontri davanti al Parlamento di Atene, Molotov sulla polizia, ancora violenze in Grecia. Il mangime e la diossina è andato anche ad 8 mandrie di bovini. In Italia 42 sequestri di carne suina. Pace fatta, le procure di Salerno e Catanzaro raggiungono un accordo. Fini chiede una riforma della giustizia condivisa. Ha denunciato il racket, ha fatto mettere in galera decine di mafiosi. Ora ha raccontato a XL: lo Stato mi ha abbandonato. Un miliardo di senza cibo, 100 milioni in più negli ultimi due anni, denuncia la FAO. Accordo sulle rinnovabili, ma non sulle emissioni. Ancora frizioni fra Italia e Europa sul pacchetto energia. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia. E da Alessandra Tedesco. Coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Fabio Cantadori. Come sempre, se volete scriverci, il nostro indirizzo è extralarge@radio24.it. Se invece volete riascoltare la puntata o ad ascoltare anche dei contributi audio, potete sempre andare sul nostro sito www.radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, con XL invece ci risentiamo domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.